Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi tutto il mondo ricorda il 10° anniversario dell'attentato a New York delle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001, e questa è una drammatica testimonianza di quei momenti. Abbiamo sentito la doppia esplosione dei due aerei che si lanciano contro i due grattacieli, e in questa occasione vi voglio segnalare il libro di un magistrato italiano. Questo non è un libro sull'11 settembre, ma è un libro che affronta un tema molto legato all'11 settembre, per questo possiamo dire viene presentato in questa occasione, cioè il tema del terrorismo islamico. L'autore è Stefano D'Ambruoso, che è un magistrato e che dirige attualmente l'ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale al Ministero di Grazia Giustizia. E il libro è stato scritto con il giornalista Vincenzo Rosario Spagnolo. Si intitola Un istante prima, è pubblicato da Mondadori, 206 pagine, 17,50 euro. D'Ambruoso è un magistrato tra i più esperti in Italia e anche tra i più esposti sul fronte proprio delle inchieste sul terrorismo di matrice fondamentalista. E in questo libro insiste su un punto, che l'Italia è al centro tuttora della ragnatela del terrore, e lo è anche un po' per colpa nostra, perché per troppo tempo il nostro paese e anche qualche magistrato non ha preso sempre sul serio il problema del terrorismo islamico. Scrive infatti l'autore che nell'ambiente giudiziario, quando lui ha cominciato a fare le proprie indagini su questo tema, le inchieste sull'integralismo islamico non erano, diciamo così, proprio di moda. E poi in Italia la situazione è anche complicata dalla farraginosità, dalla contraddittorietà di molte procedure. Cita per esempio il caso di un integralista, Abu Imad, che era stato al centro di un caso particolare perché aveva chiesto asilo politico in Italia. Questo status gli era stato negato dalla commissione del Ministero dell'Interno proprio per i suoi trascorsi. Allora Abu Imad aveva fatto ricorso al TAR della Lombardia, che nel 2001 aveva annullato la decisione del Ministero, il quale aveva a sua volta presentato appello davanti al Consiglio di Stato, che però nel 2005, leggo sempre dal libro, ossia 10 anni dopo la presentazione della prima domanda, aveva confermato la decisione del TAR. E quindi Abu Imad era stato evidentemente accettato, accolto in Italia, salvo poi essere stato condannato nel 2010 in via definitiva dalla Cassazione a 3 anni e 8 mesi per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale, e finalmente a quel punto il Viminale ha potuto procedere alla revoca dello status di rifugiato politico. E poi ci sono tante altre particolari di cui parla D'Ambruoso, per esempio il fatto che il nostro paese sia quello che dopo gli Stati Uniti ha il maggior numero di agenzie di trasferimento finanziario, di money transfers, che nascono come funghi in ogni città e perfino nei comuni più piccoli, scrive il magistrato. In un tale mare di attività accade che qualche agenzia sia utilizzata per inviare e riciclare denaro sporco, proventi illeciti, profitti destinati a evasione fiscale, e anche il finanziamento del terrorismo segue canali analoghi. Per tutte queste ragioni, dice D'Ambruoso, non bisogna abbassare la guardia. Naturalmente l'autore, essendo un magistrato, è molto fermo nel difendere le tutele giurisdizionali, lo Stato di diritto, insomma la democrazia liberale, ma aggiunge che per restringere il campo alle indagini sull'integralismo islamico non c'è dubbio che talvolta, col solo atteggiamento di indifferenza, col melliflua condiscendente far finta di non vedere, con la semplice banale omertà quotidiana, alcuni italiani e stranieri, uomini e donne, islamici e non, impediscano che un terrorista venga individuato. All'interno del mondo islamico, anche in Italia, infatti, ci sono i facinorosi, gli estremisti, gli integralisti, una sparuta minoranza, sostiene il magistrato, ma comunque delle persone con cui fare i conti, e il pericolo, aggiunge, può venire anche dagli extracomunitari. È un dato di fatto, scrive, che il pericolo di incontrollate infiltrazioni estremistiche all'interno della massa dei migranti sia concreto. E quindi, conclude, anche la primavera araba può avere degli sbocchi imprevedibili proprio per la forza che i movimenti islamici potranno assumere all'interno di questi movimenti. Insomma, questo di D'Ambrosio è un libro documentato e coraggioso, scandito dalle tappe della discesa negli inferi del terrorismo di un libico abitante a Milano, Mohammed, che si fece saltare in aria davanti a una caserma nel 2009. Un esempio di manovalanza disperata, espressione delle condizioni sociali difficili in cui spesso vivono, dal quale provengono molti terroristi, ma che tuttavia contrastano con le condizioni dei capi dei terroristi. Scrive infatti D'Ambrosio che quando si dice che il terrorismo è figlio della povertà e dell'emarginazione, bisogna rammentare che se ciò è vero per la manovalanza, è altrettanto noto come molti dei suoi leader e ideologi non sono affatto proletari col dente avvelenato. Sono studiosi con uno o più lauree e in qualche caso addirittura ricchi capitalisti altolocati. Vi segnalo anche sull'11 settembre il libro di Alessandro Gisotti intitolato 11 settembre, una storia che continua, è pubblicato da Effata Editrice, 96 pagine, 8 euro. Questo è un libro che nasce da una serie di incontri e di interviste con vari protagonisti di quella data drammatica, giornalisti, vigili del fuoco, impiegati del Pentagono, la famiglia di un giovane, un poliziotto e un sacerdote. Tra i vigili del fuoco c'è anche il comandante, quello che dovette sostituire il comandante dei vigili del fuoco in carica che venne ucciso dall'attentato. Tra l'altro entrambi, sia il defunto che colui che lo sostituì, erano di origine italiana. Le storie che racconta Gisotti sono tutte volte a far risaltare l'enorme carica di solidarietà che si manifestò allora e dopo anche, con tante iniziative che manifestano ancora i loro effetti. Nota per esempio padre Kevin, che è il prete cattolico intervistato, il parroco della chiesa che sorge proprio sotto le Torri Gemelle, che questo spirito di generosità ha cambiato durevolmente l'atteggiamento dei newyorkesi, leggo dal libro di Gisotti. La gente in questa città, afferma il prete, è diventata più paziente, c'è più rispetto verso gli altri. Lo vedi anche ai semafori. Prima dell'11 settembre, appena scattava il verde, dovevi muoverti, altrimenti le macchine dietro cominciavano a suonare il clacson. Adesso c'è maggiore pazienza. Ritengo, conclude il sacerdote, che questa tragedia abbia fatto capire a molte persone quali siano le cose veramente importanti nella vita. Sull'11 settembre si è aperta a Palazzo Reale a Milano, organizzata da Forma con il Comune di Milano, la mostra 11 settembre, il giorno che ha cambiato il mondo, 10 anni dopo, documenti e immagini. La mostra sarà aperta fino al 2 ottobre. Un romanzo francese ambientato a Ground Zero è L'ombra vuota di Thomas Reverdy, è pubblicato da Sironi, 190 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Gaia Amaducci. Qui siamo nel dopo 11 settembre, quando viene scoperto un cadavere, il cadavere di un operaio musulmano che sta lavorando nel cantiere, non è una vittima diretta dell'attentato, e da questo ritrovamento si dipana una storia fra il giallo e il noir, di cui sono protagoniste tre persone, tra cui un francese che si trova a New York per ricostruire quella tragedia, tre persone che danno vita a un intreccio di storie che apre nuovi squarci sull'attentato. Una New York ben diversa, voltiamo un po' pagina, assai più scintillante e mondana, è quella che troviamo nel libro di Michael Daly, Guida per gentiluomini all'arte di vivere con eleganza, è pubblicato da Nutrimenti, 272 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Marco Bertoli. Questo è il primo romanzo di questo scrittore di racconti di grande successo, che ci presenta Arthur Camden, ricchissimo ma inetto rampollo di una famiglia di imprenditori, al quale tocca il destino, probabilmente per sua incapacità, di chiudere l'azienda di famiglia. Per di più la moglie sta per lasciarlo e questo aumenta il senso del suo fallimento, che culmina nel rogo da lui procurato di un esclusivissimo circolo di pesca al quale lo stesso Camden è assai affezionato. Ne nascono tante disavventure che fanno risaltare il carattere fra l'ingenuo e lo sconclusionato del protagonista, che ci rimarrà impresso con le sue disavventure a lieto fine, che dipingono un mondo vacuo e scintillante del quale alla fine Arthur si dimostrerà migliori. Ecco alcune righe che sintetizzano il rapporto con la moglie e la personalità di Arthur Camden. I piatti non erano stati serviti che da poco quando Rebecca si lanciò in un lungo monologo sul fatto che Arthur era una persona meravigliosa, che lei non credeva a nessuna delle cose crudeli che gli aveva detto, che però nel corso degli anni era cambiata, era una donna diversa e da una relazione si aspettava cose che lui non poteva proprio darle. Tu sei un uomo meraviglioso, davvero, continuò. Così dolce, gentile. Ma è proprio per questo che restare insieme è impossibile. Ora ti piacciono canaglie e farabutti? Disse Arthur, non precisamente lusingato dall'elogio di Rebecca. No, ribatté lei. Non è questo. È che mi piace, ecco, star fuori fino a tardi. Mi piace viaggiare. Mi piace divertirmi in modi che a te non piacciono particolarmente. Arthur si affannò a negare tutto. A lui divertirsi piaceva non meno che a chiunque, le disse. Se fosse o no la verità, Arthur non ne era certo. Gli pareva che avrebbe potuto essere così. Avrebbe potuto essere vero che gli piaceva divertirsi, ma la verità era che non aveva la minima importanza. Arthur comprese che il motivo per cui non avevano più fatto cose divertenti insieme non era che a lui non piaceva divertirsi, era piuttosto che Rebecca non voleva divertirsi con lui. Era strano, ma ciò che Arthur vagamente desiderava era essere incluso in questa nuova avventura in cui Rebecca si era imbarcata. Gli sembrava tutto così affascinante, ma era chiaro che Rebecca voleva percorrerla da sola. Non era stata la personalità di Arthur a precluderle tutta quella vita eccitante. Non lo amava più. Ecco che cosa gliel'aveva preclusa. Una New York ancora diversa è quella mafiosa, descritta da Gaete Lesi in un classico libro reportage, Onore il padre, pubblicato da Rizzoli, 608 pagine, 13,90 euro, tradotto da Clemente Fusero. Questo è un libro di 40 anni fa, che allora fece epoca per la descrizione della famiglia dei Bonanno. Come spiega l'autore, Onore il padre fu il primo libro di cronaca a penetrare nella mafia, diversamente da saghe come Il padrino e Il soprano, entrambe partorite dalle menti creative di scrittori e registi, niente di Onore il padre era frutto di immaginazione o invenzione. E infatti si tratta di un reportage che diventò famosissimo per l'accuratezza della ricostruzione, non meno che per lo stile letterario. Telesi evidentemente non parteggia per il clan mafioso e per i suoi traffici, ma come nota Gabriele Romagnoli nella postfazione, riesce, senza diventare un fiancheggiatore, a raccontare anche la natura umana che rimane sempre sottesa a queste azioni, la loro quasi inevitabilità dato il contesto in cui si nasce e si cresce. Il Bonanno di Telesi è un boss riluttante quanto lo sarà Tony Soprano. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo cominciato questa puntata parlando del libro di un magistrato e continuiamo con una magistrato, Silvia Cecchi, che opera a Pesaro, la quale ha pubblicato Giustizia relativa e pena assoluta, è pubblicata da Liberi Libri, 178 pagine, 16 euro. Anche questo è un libro coraggioso, perché la Cecchi rimette in discussione un principio che diamo per scontato, sia che i reati commessi debbano essere puniti con la prigione. La Cecchi non è ovviamente contro il principio della carcerazione, ma ritiene ingiustificato, e anzi a un certo punto le scappa la parola osceno, ridurre la pena, che dovrebbe sempre avere funzione rieducativa, esclusivamente al carcere. Scrive infatti che la previsione monotona e uniforme della sanzione detentiva, indefettibilmente combinata per tutti i reati previsti, a eccezione di pochi casi, è del tutto sprezzante di una sincera finalità rieducativa. E quindi propone di studiare nuove forme sanzionatorie che devono essere personalizzate, devono cioè tenere bene in considerazione la personalità di chi ha commesso il fatto, il delitto, la natura del delitto e soprattutto anche il carattere della pena, che spesso può avere un carattere afflittivo maggiore anche se non è appunto legato al carcere. Ma facciamoci spiegare dall'autrice la sua tesi. Buongiorno a Silvia Cecchi. Buongiorno. Silvia Cecchi, nel suo libro lei affronta o propone una tesi che forse rischia di essere impopolare, quella che il carcere è considerato un male necessario da gran parte dell'opinione pubblica, ma che in realtà i suoi fondamenti giuridici, filosofici e anche di politica del diritto sono abbastanza discutibili. Ecco, questa sua tesi appunto rischia di essere impopolare? Questo non lo so dire, diciamo questo è uno scritto anche di risulta rispetto alla mia attività professionale, perché mi sono accorta, così io come tanti altri colleghi, che la sanzione carceraria oggi rischia di essere disapplicata e comunque c'è il fenomeno molto grave della fuga della sanzione. Questo mi ha portato a interrogarmi sulla improprietà della sanzione penale, in particolare della sanzione carceraria, che come sappiamo è la sanzione unica oggi prevista dal codice penale dal primo all'ultimo reato in modo uniforme, salvo rarissime eccezioni. Quindi impopolare e anche impopolare la considerazione di una sanzione penale inefficace e di fatto in parte disapplicata per la difficoltà di applicarla in queste condizioni. E dunque lei propone come alternativa un approccio basato su una diversa cultura della giustizia che lei definisce mediativa riparativa. Sì, dunque io non mi sono molto inoltrata in questo campo perché mi sono più trattenuta proprio sulla critica della giuridicità della sanzione penale. Mi sono mantenuta su questo versante, cioè proprio la demolizione della ragion d'essere della sanzione carceraria, almeno per la maggior parte dei reati. E poi anche in certa misura per i reati diciamo a fondo violento, perché noi abbiamo un codice penale che prevede una quantità di reati che non hanno poi all'origine una motivazione violenta e che però prevedono ugualmente la sanzione carceraria. Ecco, le sanzioni intanto anche oggi previste dal nostro ordinamento, come la sanzione pecuniaria, ma tante altre sanzioni come la confisca dei beni, che oggi per noi sono accessorie. Invece ritengo che possano essere anche delle sanzioni intese come sanzioni primarie, ma poi sanzioni alternative alla detenzione che il nostro ordinamento prevede come forme alternative in fase di esecuzione della pena, ma che potrebbero essere previste e comminate in via preventiva, è vero, come previsione normale e primaria della norma penale. Ecco, poi c'è anche tutta questa cultura della mediazione penale e cioè tutte queste pratiche che peraltro dovrebbero essere considerate parallele rispetto alla sanzione, a una sanzione penale tipicizzata, che sono state esplorate da altri ordinamenti, ma gli altri ordinamenti anche europei hanno esplorato in modo approfondito anche sanzioni diverse dalla sanzione carceraria. Delle sanzioni che spesso lei stesso scrive possono essere ancora più impegnative da un certo punto di vista per il reo. E certo, perché il problema è proprio questo, cioè un reato che viene concepito come violazione di un rapporto di responsabilità, di relazionalità in senso giuridico e quindi anche in senso di etica relazionale nella vita sociale e alla quale risponde invece una sanzione del tutto irresponsabile. La tendenza invece mi pare quella contraria oggi, cioè si moltiplicano i reati, si moltiplicano le minacce di carcere. In queste ultime settimane abbiamo sentito parlare del carcere per gli incidenti provocati con le automobili, naturalmente delle manette agli evasori, insomma sempre più carcere. Certo, rispetto ai reati colposi è senza dubbio un'abnormità, perché se ha un senso rispetto ai reati dolosi e a fondo violento può avere un senso, una logica retribuzionistica, io non la condivido, ma potrebbe avere un senso almeno in astratto per taluni. Rispetto al reato colposo la sanzione carceraria è assolutamente spropositata, cioè a me sembra che la sanzione carceraria oggi sia il correlato non del reato che si è venuto costruendo secondo un diritto penale classico in termini sempre più mirati, circoscritti, razionali, ma che sia diciamo lo specchio della paura. Ecco, è la risposta alla paura, non è una risposta alla commissione del reato. Ecco, il diritto non deve mai cadere, io credo, in questo errore. E salvo appunto cadere in questa paura, ma poi accettare una situazione come lei diceva all'inizio, in cui poi alla fine in carcere, quando si è veramente condannati, ci si sta per poco. E questa è la contraddizione di fondo, e questo è il vero nodo da risolvere. Questa sua tesi è popolare presso i suoi colleghi magistrati? Naturalmente quando ne abbiamo parlato tutti abbiamo scoperto che questo nodo l'avevamo tutti, poi qualche volta è più consapevole, qualche volta meno. Noi siamo naturalmente i custodi della legalità, per cui tutto ciò che sembra essere nel verso della tutela della legalità è benvenuto e perseguito, lo facciamo anche con grande impegno, io stessa come i colleghi tutti, però se ci interroghiamo più a fondo io ho trovato molta concordia. E questo non significa che nella professione poi non ci comportiamo secondo la legge, quello che si deve, anche con la convinzione che la repressione dei reati debba essere perseguita, questo è il nostro compito. Ma quando poi ci interroghiamo ci rendiamo conto che qualche volta pestiamo l'acqua nel mortaio. Bene, allora speriamo che cambi la cultura di fondo. Grazie a Silvia Cecchi, autrice di Giustizia relativa e pena assoluta. Buona grazie domenica. Grazie a lei, arrivederla, grazie. Prima di salutarci vi ricordo che oggi a Mantova si conclude il Festival della Letteratura. Tra l'altro, tra gli appuntamenti di oggi ricordo un incontro con Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone, con Bruno Manfellotto su Unità e Disunità d'Italia, e poi l'ultimo incontro alle 18.30 che è proprio dedicato al tema dal quale siamo partiti, e cioè l'attentato delle Torri Gemelle. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.